Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Dossier autostrade, oggi l'incontro tra i vertici di Aspi e la ministra De Micheli. Il governo attende una proposta o starà revoca. Decreto rilancio oggi al voto, maxi manovra da 55 miliardi, super bonus edilizio, sconti auto e cassa integrazione. Caso Camici in Lombardia, le indagini sul cognato di Fontana, per i magistrati non fu donazione ma una fornitura da 500.000 euro. Calcio, l'Atalanta si avvicina alla Lazio, stasera altre due partite di Serie A in campo l'Inter. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, dossier autostrade con l'incontro tra il ministro De Micheli e i vertici di Aspi in primo piano, ma anche il decreto rilancio oggi al voto alla Camera, poi ci sarà il passaggio definitivo al Senato ma senza modifiche, molte le misure previste, poi gli sviluppi delle indagini sul caso Camici in Lombardia che coinvolgono il cognato del presidente Fontana. Ma cominciamo con la vicenda autostrade. La ministra delle infrastrutture Paola De Micheli ha convocato per oggi i vertici della società Autostrade per l'Italia dopo la sentenza della Consulta che ha dato ragione al governo sul decreto Genova. Il governo invita proprio Autostrade a fare una proposta per scongiurare la revoca. Autostrade faccia una proposta accettabile e vantaggiosa per lo Stato, altrimenti scatterà la revoca. È l'attaut del Premier Conte che arriva dopo la decisione della Consulta sulla legittimità dell'esclusione del concessionario Aspi dalla ricostruzione del nuovo ponte di Genova per l'eccezionale gravità della situazione. Una sentenza che conforta, ha commentato Conte, secondo il quale la trattativa con Autostrade si trascina da troppo tempo. Ma la procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla, spiega il Premier, assicurando che entro la settimana sarà presa una decisione in Consiglio dei Ministri, decisione sulla quale spinge fortemente il Movimento 5 Stelle. La revoca è una questione dirimente, dicono i pentastellati, mentre il PD media e la società è stata convocata questo pomeriggio al Ministero dei Trasporti e la controllante di Aspi Atlantia tiene oggi il suo Consiglio d'amministrazione per studiare le contromosse. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ancora chilometri di code in Liguria intanto per la manutenzione delle gallerie. Resta chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest in A7 per i lavori alla galleria Zella. Chiusi altri tratti che stanno causando code nel nodo autostradale genovese. E oggi, come anticipato, il decreto rilancio va al voto finale dopo l'approvazione ieri della fiducia alla Camera. Vista la scadenza, che è il 18 di luglio, il Senato potrà solo convertire senza modifiche. Ecco allora le principali novità. Rush finale per il decreto rilancio, ossia la maxi manovra da oltre 55 miliardi con aiuti per lavoro, famiglie e imprese. Il provvedimento, varato in aprile per fronteggiare la pesante crisi economica innescata dal coronavirus, ha incassato ieri la fiducia alla Camera. Oggi ci sarà il voto finale dei deputati e poi il decreto passerà in Senato per il via libera definitivo previsto la prossima settimana. Molte delle misure approvate ieri con la fiducia sono già quelle definitive. In arrivo quindi il rinnovo degli ammortizzatori sociali, il bonus babysitter da usare anche nei centri estivi, il prolungamento della cassa integrazione, il reddito di emergenza e lo smart working per i dipendenti pubblici prolungato fino al 31 dicembre e poi sanatoria per i migranti e bonus da 600 euro per professionisti autonomi. Fra le misure anticrisi varate ci sono anche il super bonus del 110% sulle ristrutturazioni anche per le seconde case, contributi a fondo perduto per le aziende, incentivi per auto e bici. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il Recovery Fund da 750 miliardi di euro per sostenere i paesi più colpiti dalla pandemia sarebbe un punto di svolta, parole della Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, che poi in un'intervista al Financial Times sui tempi dice il fondo potrebbe essere concordato dagli Stati europei dopo il vertice della prossima settimana, e cioè entro la fine del mese. E adesso i casi a livello mondiale di coronavirus, con l'andamento dell'epidemia, sono oltre 12 milioni nel mondo. Sono oltre 12 milioni i contagi da coronavirus nel mondo, lo rileva la Johns Hopkins University. Di questi, oltre 548.000 hanno avuto un esito fatale. Negli Stati Uniti, che si confermano il paese più colpito a livello globale, sono ormai più di 3 milioni i casi, di cui l'ultimo milione totalizzato in meno di un mese, mentre le vittime sono oltre 132.000. L'America non è mai uscita dalla prima ondata della pandemia, ha spiegato il virologo Anthony Fauci, membro della Task Force della Casa Bianca contro il Covid-19. Covid-19, ma Donald Trump si ostina a negare la realtà e preme per riaprire al più presto le scuole. Intanto balzo di casi a Tulsa, città dell'Oklahoma, dove Trump ha tenuto un comizio lo scorso 20 giugno, e record di decessi in Texas. E non accenna ancora a scendere la curva della pandemia in Brasile, dove è rimasto contagiato anche il presidente Bolsonaro. Il Covid-19 provocherà la peggior recessione in un secolo in America Latina e nei Caraibi, ha scritto su Twitter il segretario generale dell'ONU Guterres. Record di nuovi casi a Tokyo, ma per il governo dipende dal fatto che più persone si sono sottoposte al test. E in Europa sale il numero dei contagi da Covid-19 nei Balcani, dove tornano le restrizioni. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il blocco dei voli potrebbe riguardare anche altri paesi oltre al Bangladesh, qualora si venissero a trovare nella stessa situazione, cioè con una fase dell'epidemia acuta. Lo ha detto oggi il ministro della Salute Speranza, dopo che nei giorni scorsi da voli provenienti non direttamente dal Bangladesh erano stati però intercettati diversi casi di positivi. Sentiamo. I casi di coronavirus importati dall'estero preoccupano le nostre autorità sanitarie. 165 cittadini bengalesi ieri sono stati respinti negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa, dove erano arrivati dopo aver fatto scalo in Qatar. A Fiumicino stamattina è arrivato un nuovo volo da Doha, ma a bordo non c'erano passeggeri bengalesi. Ieri sera l'ENAC ha invitato tutte le compagnie a non imbarcare viaggiatori provenienti dal Bangladesh. Il governo ha sospeso per una settimana gli arrivi da quel paese dopo il rientro di una trentina di bengalesi risultati positivi. Il ministro della Salute Speranza ha chiesto all'Europa regole comuni sugli arrivi dalle aree extra Schengen. Sul fronte interno, intanto, ieri si sono registrati 193 nuovi casi, un dato in leggera risalita rispetto a martedì. Due focolai sono stati individuati, uno nel cuneese, uno in un'azienda in provincia di Parma. Nel frattempo si alleggerisce ancora la pressione sugli ospedali. In 13 regioni non ci sono più pazienti Covid in terapia intensiva. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto l'Australia fa sapere di voler reagire alla nuova legge sulla sicurezza ad Hong Kong, con la sospensione del trattato di estradizione e con l'invito ai cittadini australiani che sono ad Hong Kong a rientrare nel paese, ma la Cina cerca di rintuzzare le critiche. Gli affari di Hong Kong riguardano gli affari interni della Cina. Nessun paese ha il diritto di interferire. Pechino risponde così a Parigi per le critiche che ha riservato alla nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong. Le stesse parole con cui in precedenza aveva risposto alle proteste di Canada e Gran Bretagna, e che riserverà probabilmente alle iniziative messe in campo dall'Australia. C'è stato un fondamentale cambiamento del contesto, ha spiegato il primo ministro Scott Morrison. Per questo abbiamo deciso di sospendere l'accordo di estradizione e di aprire la via della residenza permanente a migliaia di cittadini di Hong Kong. I primi passi saranno l'estensione di 5 anni della durata dei visti a chi è temporaneamente già residente e l'offerta di posizioni permanenti a studenti e lavoratori già nel paese. Preoccupato della situazione, si è detto oggi il presidente del Parlamento europeo Sassoli, che ha invitato a dar prova di solidarietà contro l'autoritarismo e la crescente erosione delle libertà ad Hong Kong. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora con la cronaca rientriamo in Italia. Ha ammesso davanti al GIP di Terni di aver ceduto per 15 euro mezza boccetta di metadone con acqua ai due ragazzi poi morti. Aldo Maria Romboli, 41 anni, sottoposto a fermo con l'accusa di morte come conseguenza di altro delitto. Lo ha fatto, a quanto si apprende, oggi nel corso dell'udienza di convalida. E non sarebbe stata invece una donazione, ma una fornitura, quella offerta di camici e altro materiale per un valore di 500.000 euro durante l'emergenza Covid da parte della Dama, società di cui la moglie del governatore lombardo Attilio Fontana detiene una quota e che è gestita dal cognato. Nel pieno dell'emergenza coronavirus, in alcuni reparti fino al 65% degli operatori del Pio Albergo Trivulzio non era al lavoro per malattia o permesso. È l'assenteismo una delle prime evidenze della relazione conclusiva della commissione d'inchiesta dell'ATS di Milano sulla gestione dell'emergenza al PAT. flat. Un livello così elevato di assenze, si legge, difficilmente trova spiegazione nella diffusione del contagio tra gli operatori. Tra le altre criticità segnalate figurano anche la scarsità di dispositivi di protezione individuale e la carenza nell'applicazione delle misure di sicurezza per ospiti e lavoratori. Tra i dati positivi, invece, se così si può dire, una mortalità tra i degenti comunque inferiore alla media. Altro fronte caldo delle verifiche sulla gestione dell'emergenza in Lombardia, l'inchiesta sulla fornitura di camici da parte della Dama, società di cui la moglie del governatore Fontana detiene una quota e che è gestita dal cognato, ora indagato. Quell'offerta, rivelano le carte dell'inchiesta, non sarebbe stata una donazione, come sostenuto dagli interessati, ma una fornitura del valore di 513.000 euro. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La burrasca del Covid-19 continua a flagellare il sistema dell'ospitalità italiana. Lo conferma oggi il Centro Studi di Federalberghi, che nel 2020 stima una perdita di oltre 295 milioni di presenze per quanto riguarda il turismo in Italia, con un calo di fatturato nel settore ricettivo pari a 16 miliardi di euro, un calo che corrisponde al 70% del fatturato. Ne parleremo ancora tra poco, faremo il punto sul bonus vacanze. Ieri il ministro Franceschini ha detto che sono stati già erogati 400.000, però gli operatori stentano ad accettarli. Cercheremo di capire perché, dov'è l'inghippo. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. È partita l'offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo sulle azioni UbiBanca. Fino al 28 luglio gli azionisti UbiBanca potranno ottenere 17 azioni Intesa Sanpaolo ogni 10 azioni UbiBanca, con un premio del 27,6% rispetto al valore di UbiBanca alla chiusura di borsa il giorno precedente il lancio dell'offerta. Il futuro oggi più che mai è di chi sa costruirlo insieme. Ecco perché crediamo in un'unione fondata su solidità patrimoniale, redditività e generazione di valore per azionisti, clienti, famiglie, imprese e dipendenti. Per maggiori informazioni visita il sito gruppo.intesasanpaolo.com o chiama il numero verde 800 595 471. Prima dell'adesione leggere attentamente il documento di offerta disponibile sul sito internet gruppo.intesasanpaolo.com o presso l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Effetto giorno. Queste le notizie. Autostrade, incontro Aspi De Micheli, il governo attende una proposta o sarà revoca. Caso Camici in Lombardia, le indagini sul cognato di Fontana, per i magistrati non fu donazione. Ha ammesso di aver venduto il metadone ai due ragazzi a Terni, l'uomo di 41 anni, interrogato oggi per la morte dei due sedicenni. Bonus vacanze, 400.000 già erogati, ma solo un hotel su quattro li accetta. Vogliamo liquidità, non credito d'imposta, dicono gli albergatori, ne parliamo tra poco. Calcio, vittoria dell'Atalanta ieri, stasera altre due partite, in campo l'Inter. minuti, eccoci qua, gentili ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. Allora, come anticipato anche dal sommario, facciamo il punto sull'andamento del bonus vacanze. Lo facciamo con Giancarlo Carniani, presidente della sezione albergatori di Confindustria Firenze. Buongiorno. Buongiorno, salve. Benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, ieri il ministro Franceschini ha detto i bonus già erogati, bonus vacanze, sono oltre 400.000, 401.525 per un totale di 183 milioni di euro. Sentendo la vostra campana, la campana degli operatori, sembra che ci sia più di una difficoltà. Secondo Unioncamere, solo il 30% delle strutture alberghiere lo accetta. Il dato emerge da un'indagine fatta qualche giorno fa a Campione. Fondamentalmente, da quello che abbiamo capito, il problema è come è concepito questo bonus, che non vi mette nella condizione di, se abbiamo capito bene, di anticipare lo sconto in qualche modo. Ci racconta come funziona e dove sono le criticità? Sì, esatto, la criticità che noi albergatori abbiamo detto fin dall'inizio è proprio sulla modalità. Innanzitutto chiedevamo liquidità, chiedevamo del cash utilizzabile immediatamente, perché le condizioni del turismo, lo sapete tutti, sono molto difficili. in special modo a Firenze, la città d'arte, dove sono in questo momento ci sono soltanto circa il 30-35% di alberghi aperti, i turisti sono pochissimi, abbiamo necessità di liquidità immediata e questo voucher aiuta poco quelle che erano le nostre richieste. È una misura un po' populista che va a aiutare famiglie sotto un reddito di 40.000 euro che oggettivamente hanno necessità di un aiuto per andare in vacanza, ma noi non ci aiuta assolutamente perché ci mette in condizione di avere ancora più credito. Abbiamo fatto noi un sondaggio tra i nostri associati di città e ci risulta che uno su cinque accetta il voucher con procedure del quale la maggior parte ancora non hanno ben capito il funzionamento. Senta, ma secondo voi, secondo lei Carniani, ci sarebbe un modo per recuperare questa misura in corsa e far sì che insomma tante persone che fanno affidamento magari su questo anche per fare le loro vacanze non rimangano deluse, e anche per voi questo sia un reale stimolo, no? Poi alla ripresa del commercio e dei pernottamenti turistici. Se ci fosse il modo, io sono un tecnico, quindi non so, di trasformarla in una misura immediatamente bancabile per quanto riguarda noi albergatori, credo che ognuno di noi sarebbe felice di accettarla. È vero che il ministro Gualtieri ha detto che è un credito cedibile, insomma, ma diventa difficile pensare che in qualche modo possa essere ceduto a terzi. Se lo vado a portare per uno sconto in banca, comunque ho un'ulteriore commissione, è per noi oggettivamente un periodo veramente difficile per andare le dico anche, molti non l'accettano perché non hanno capito in maniera la burocrazia per accettarlo. Noi all'interno della nostra associazione stiamo cercando di spiegarglielo meglio, ma è già molto complicato e complesso da gestire. Senta Carniani, lei è anche manager di un grande hotel, il Plaza Lucchesi di Firenze, rappresentante di categoria a Firenze. Come sta andando un po' anche la stagione, soprattutto cosa vi aspettate per luglio-agosto? Prima di salutarci, sempre il sondaggio di prima di Union Camere dice che il 15% delle vostre aziende non ha ancora riaperto, ma soprattutto la quasi totalità, il 98%, dice di dover ridurre gli addetti anche in previsione. Noi riguardi, riapriamo oggi, ci ha chiamato nel giorno della riapertura un albergo che ha passato due guerre mondiali, insomma, aperto nel 1860, riapre oggi e le previsioni sono molto molto basse perché chiaramente le città d'arte dipendono molto dai mercati che sono chiusi, ovvero gli Stati Uniti, l'Asia, e quindi in qualche modo devono affrontare un nuovo tipo di mercato che è quello del mercato europeo, molto meno ricco rispetto ad altri mercati. Diciamo che c'è una timida, ricominciamo a vedere qualche turista, viaggiano in auto, evitano di prendere mezzi pubblici perché ancora impauriti dal Covid. Certo, siamo veramente molto molto lontani da numeri accettabili, però a un certo punto, e quello che hanno detto anche insomma i nostri associati, è c'è bisogno anche di far tornare l'offerta per stimolare la domanda. Se l'offerta è chiusa, oggettivamente è un po' difficile la domanda arrivi. Solo che saranno mesi ancora complicati, una ripresa vera la vedremo soltanto a partire dalla primavera del 2021. Quindi arrivare fin lì sarà molto difficile, ci vorranno ammortizzatori sociali che ci supportino ancora per un lungo periodo, altrimenti io vedo i grandi rischi per l'occupazione. Grazie, in bocca al lupo, auguri, buon lavoro al presidente degli albergatori Confindustria Firenze. Questa dunque la situazione non facile per quanto riguarda gli operatori del turismo. Adesso invece apriamo una finestra sull'attesa per oggi pomeriggio, il vertice, torniamo sul dossier autostrade, il vertice tra il ministro De Micheli e ASPI. Il governo si attende una proposta, lo hanno fatto sapere anche il presidente del Consiglio Conte direttamente, la strada è quella della revoca, una possibilità di accordo sotto traccia c'era, vedremo se prevarrà o se sarà davvero rottura. Torna su questo Daniele Biacchesi e anche sulla questione del ponte di Genova. Ormai nella maggioranza che sostiene il premier Giuseppe Conte si litiga su tutto da mesi e la crisi di governo pare sempre più vicina. Tutto dipenderà dall'esito delle elezioni regionali del 20 settembre e dal referendum sul taglio dei parlamentari. L'ultimo dei problemi che peggiora il già complicato rapporto tra PD e 5 Stelle riguarda la sentenza della Corte Costituzionale con la conferma della legittimità dell'esclusione dell'ASPI del gruppo Benetton dai lavori della ricostruzione del nuovo ponte di Genova. Il motivo resta l'eccezionale gravità della situazione. Ma allora, chi dovrà gestire il ponte Morandi? E qui le differenze politiche operative tra PD e 5 Stelle diventano più marcate. Il PD aveva indicato ASPI per atto dovuto, ma la decisione della Consulta diventa ora determinante. Il 5 Stelle chiede la revoca della concessione ai Benetton e giustizia per i familiari delle 43 vittime. Il 14 agosto si avvicina, saranno 2 anni dal giorno in cui uno dei grandi manufatti costruiti dall'uomo si è sfaldato come i castelli di sabbia quando c'è l'alta marea. 2 anni dopo il Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi chiede notizie certe sul futuro della gestione del ponte e chiede il rispetto della memoria dei suoi cari. Non si può che dargli ragione. Adesso è con noi l'assessore alla sanità della Regione Lazio, tra l'altro responsabile dell'unità di crisi Covid, Alessio D'Amato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, vogliamo fare il punto sulla questione dei voli in arrivo dai paesi a rischio e in particolare c'era attenzione per un volo questa mattina da Qatar Airways, un altro dovrebbe arrivare a breve, per la questione dei passeggeri in provenienza dal Bangladesh, attraverso però giri perché indiretti, perché i voli dal Bangladesh sono bloccati dopo la richiesta del ministro Speranza. Notizie intanto, assessore, sul secondo volo che dovrebbe arrivare, o forse già arrivato in questi minuti? Ma no, noi notizie non ne abbiamo, siamo in attesa, invece questo sì, lo posso comunicare, sì, di una ordinanza del Ministro della Salute, nuova ordinanza che chiarirà anche questi aspetti tecnici, cosiddetti le triangolazioni, ma soprattutto amplierà la lista dei paesi interessati, che sono attualmente i paesi dove c'è un tasso di circolazione del virus più elevato, ampio, più perché elevato, sì. Ricordiamoci, in attesa appunto di questa ordinanza che lei ci sta dando notizia, quindi che c'è una nuova ordinanza in arrivo proprio per, sì, delimitare questo fenomeno. Era successo, ricordiamolo, il 6 luglio che su un volo in arrivo da Dhaka erano stati ritrovati diversi pazienti, sì, positivi. Allora, sì, a quel punto il ministro Speranza ha fatto scattare il giorno dopo il blocco dei voli, però poi si è posta la questione degli arrivi dalle, sì, triangolazioni. Quello è un volo che noi abbiamo fortemente attenzionato, era un volo, sì, diretto, un volo speciale su cui abbiamo trovato un passeggero su 8 di quel volo positivo e ovviamente sono stati tutti posti in isolamento e sono tuttora in isolamento, e da lì però è scattato un meccanismo sia di richiamo di coloro che sono rientrati a Roma dal primo di giugno ad oggi e si stanno appunto rintracciando tutti i contatti, eseguendo tutti i test, e dall'altro anche una attenzione, un livello più alto di attenzione da parte dei ministeri competenti, innanzitutto sugli scali di Roma e di Milano, ma quello di Roma è quello principalmente interessato. Ecco, appunto, c'è anche questo aspetto, perché è vero che Speranza sta per emettere un'ordinanza, è vero che ieri l'ENAC ha dato indicazioni alle compagnie di non imbarcare i passeggeri di origine bengalese, però poi c'è anche il tema effettivamente, assessore, dei controlli. Cosa succede? Quali sono le procedure previste? È già prevista la quarantena per chi arriva da un elenco di paesi extraeuropei, ma per esempio chi è che deve fare poi i controlli di cui lei ci parlava e seguire il monitoraggio di queste persone che vengono da paesi a rischio? Ma intanto bisogna evitare che questo flusso dai paesi di provenienza diciamo partino, insomma questo è un po' l'elemento fondamentale, e successivamente vanno messe in atto tutte le procedure di controllo che sono state codificate, quelle classiche dei distanziamenti, della mascherina e del controllo della temperatura. Noi qui a Roma abbiamo fatto una cosa in più, ovvero diciamo lì dove ci sono state specifiche segnalazioni abbiamo fatto i tamponi in aeroporto, che credo sia la prima volta che viene fatto a livello nazionale, e questo ci ha consentito di appunto rilevare delle criticità su cui adesso bisogna metterci mano. Insomma, ecco. Lei pensa che su questa questione in particolare, visto la forte presenza della comunità delle persone del Bangladesh in Italia, sia un problema risolto per quanto riguarda Roma e la sua regione, o c'è ancora qualcosa, diciamo, da accertare, da indagare, secondo lei? Beh, sarà risolto nel momento in cui verranno rintracciati i contatti uno per uno, insomma, questo è un po' l'elemento. Noi oggi ad esempio abbiamo 14 nuovi casi e proprio dei test che stiamo eseguendo a tappeto sulla comunità del Bangladesh, e questo a dimostrazione che nelle settimane scorse questi link, queste correlazioni con viaggiatori di ritorno hanno aumentato il livello di positività, per cui questo è un lavoro che proseguirà nei prossimi giorni, un lavoro molto intenso e che riguarderà migliaia di test, ma è necessario farlo per la salute pubblica. Grazie Assessore D'Amato, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. 13:28 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco dopo le informazioni di borsa, i titoli, tutte le altre notizie, e poi, visto che il 14 luglio era la data prevista ufficiale per la riapertura delle discoteche, molte regioni hanno in realtà anticipato questa data, in queste ore le ultime regioni si stanno allineando, faremo il punto anche su come si balla quest'estate. 349-238-6666, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Autostrade, l'incontro tra il ministro De Micheli e Aspi. Il governo attende una proposta o sarà revoca? Decreto rilancio oggi al voto, maxi manovra da 55 miliardi, super bonus edilizio, sconti auto e cassa integrazione. Caso Camici in Lombardia, le indagini sul cognato di Fontana, per i magistrati non fu donazione. Coronavirus, altri due voli dal Qatar sotto controllo, per i possibili arrivi dal Bangladesh, speranza, siamo pronti a fermare i voli di altri paesi. Calcio, l'Atalanta si avvicina alla Lazio, stasera altre due partite, in campo l'Inter. Cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Un messaggio al volo al 349-238-6666. Gestisco un agriturismo con ristorante. Abbiamo bisogno di liquidità, non crediti da scontare nel 2021. Per lo Stato è un giro di partita interno, ma noi abbiamo spese reali da sostenere e anticipare le spese. In questo momento è assurdo, più che un aiuto, sembra una gabbia. Così questo ascoltatore sul bonus vacanze. Grazie caro ascoltatore, buon lavoro, in bocca al lupo per la tua attività e bocca al lupo a tutti noi per questa estate. Il punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Mentre da noi il tema è diventato il rapporto tra governo e società autostrade, su cui l'esecutivo è, tanto per cambiare, diviso e pasticcione, i segnali forti da cogliere arrivano dall'Europa. L'ambiziosa agenda messa in campo ieri da Angela Merkel davanti al Parlamento europeo per proporre le sfide della nuova Unione, che dovrà guardare alla svolta sostenibile, all'inclusione sociale, anche alla politica, quella alta, dei diritti e della democrazia, che solo l'Europa ha saputo mettere in campo grazie alla sua straordinaria cultura, frutto di una storia nobile e sofferta, di cui a volte ci dimentichiamo. È l'Europa che darà il ritmo dell'uscita dalla crisi creata dalla pandemia, e lo darà probabilmente a tutto il mondo se saprà essere degna del suo passato e delle sue giuste ambizioni. La scommessa è tutta nella nuova leadership al femminile che incarnano Angela Merkel, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, e sulle cui spalle grava il destino di un intero continente. Facciamo un tesoro della conclusione del discorso della Merkel, che ha celebrato i 250 anni dalla nascita di Beethoven. Ogni volta che ascolto Beethoven, ha detto la cancelliera, scopro nella sua musica qualcosa di nuovo. Lo stesso vale per l'Europa. L'Unione non è solo un retaggio del passato, è anche la speranza per il futuro. C'è da crederle e non è retorica. Alle 13:37, cari ascoltatori, parliamo di discoteche e sale da ballo, e si riprende a ballare quest'estate. La data fissata inizialmente era per il 14 luglio, ma in molte regioni si è anticipata. Adesso si torna in pista, ma non è proprio così in Lombardia, in Piemonte e credo anche in Sardegna. E ne parliamo con Roberto Cominardi, che è presidente per la provincia di Milano del SILB FIPE, l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benvenuto Cominardi. Allora, qualche tempo fa noi parlammo, coniamo questa espressione del federalismo delle mascherine, perché parlavamo del fatto che ogni regione aveva regole diverse sull'uso delle mascherine all'interno, all'esterno, nei teatri, fra l'altro anche nei locali di intrattenimento, eccetera. Oggi mi verrebbe quasi da traslare questa espressione per parlare del federalismo delle discoteche, perché ci aiuti lei, se ha seguito bene, così per percorrere un po' come è andata la ripresa nelle varie regioni italiane. Perché io mi sono segnato diverse date. C'è chi ha iniziato a metà giugno, come la Liguria, chi è arrivato il 19 giugno, la Toscana e la Puglia. In Lazio si è ripreso il 1 luglio, in Lombardia credo domani, in Piemonte oggi, giusto? Esattamente, più o meno. Esattamente. Più o meno così le date sono queste. Sono quelle. Parliamo quindi, poi diciamo, anche di riaprire le discoteche al chiuso o all'aperto, specifichiamo anche questo. Ecco, allora diciamo che tutto nasce dalla famosa conferenza Stato-Regioni, che ha stabilito fondamentalmente di seguire le linee guida del DPCM, che indicavano come responsabili le varie regioni a secondo dell'andamento della pandemia, e quindi ovviamente una regione come Lombardia o una come Piemonte sono state tra le ultime, certo, a poter riaprire. Diciamo che fondamentalmente le aperture sono al 90% solo e unicamente negli spazi all'esterno. E questo ovviamente perché, come abbiamo sentito da tutti i vari studi, è la zona, diciamo, più safety per quanto riguarda il droplet, e quindi fondamentalmente, diciamo, è una riapertura parziale delle attività con numerose limitazioni che devono essere, ecco, seguite. Cominardi, a questo proposito, perché le limitazioni sono parecchie, insomma, bisogna ballare per esempio a distanza di 2 metri l'uno all'altro. Ma sì, e infatti il ballo. Allora, c'è da dire una cosa, premettiamo che fondamentalmente questo calcolo, la distanza interpersonale di 1 metro e la distanza interpersonale di 2 metri in pista da ballo vengono utilizzate al mero calcolo della capienza che il locale è tenuta a rispettare, e quindi devono rimodulare l'affluenza del pubblico in funzione di questi parametri. Poi ovviamente il personale incaricato deve supervisionare che queste distanze vengano rispettate, anche se, lo ricordo, è una responsabilità che attiene appunto alla responsabilità individuale delle persone. Questo anche perché ovviamente è una libertà personale, e quindi nessuno può andare, diciamo, a imporre la distanza di 1 metro, diciamo, con la forza, con la costrizione. Sì. E quindi è più che altro un discorso di ricordare alle persone di indossare le mascherine ogni qualvolta questo metro non è possibile sia rispettato. Per esempio, è indispensabile che tutti gli avventori accedano ai locali con le mascherine. Certo. Perché nel momento in cui poi, per esempio, si dovessero muovere all'interno degli spazi al chiuso, per esempio per i servizi igienici o cose del genere, devono indossarle. Però poi quando, esatto, si è seduti o si sta con i propri, diciamo, il gruppo di amici, sì, chiaramente non è più indispensabile. No, non è più indispensabile. Ecco, altra cosa che è fortemente consigliata e che moltissimi locali invece adottano proprio a livello obbligatorio è quello della misura corporea, che può sembrare... La temperatura. Esatto, certo, esatto, perché diciamo che è sicuramente il primo segnale, e quindi questo, diciamo, ingresso con mascherine, rilevamento della temperatura corporea, igienizzazione degli spazi e gel igienizzante a disposizione da tutte le parti, e questo distanziamento. Quello che, diciamo che, sì, sì, prego. Ecco, diciamo che molti di noi hanno optato per l'interdizione addirittura della pista da ballo, quindi un ritorno all'antico, quindi con solo il ballo presso i tavoli. Questo perché è più semplice monitorare la situazione. Una discoteca molto più ordinata. Senta, a proposito di questo, perché insomma effettivamente per altre attività, adesso penso ad esempio agli stabilimenti balneari, molti hanno pensato, beh insomma, forse questo fatto di recuperare un po' le distanze in quelle spiagge dove invece si era un po' compressi potrebbe anche essere positivo dal punto di vista dell'utente. Certo, per la discoteca la situazione non è così, perché insomma, in discoteca la vicinanza, ora non mi faccia dire alle 13.42 qualche cosa, però fa parte, è insita insomma della questione del ballo. Voi come questo ritorno all'antico, che lei diceva, il ballo al tavolo, il ballo distanziato, c'è anche qualche opportunità che sta cercando di cogliere, o è davvero una, come dire, aspettate che torni un po' un via libera di tutti, perché adesso la situazione è veramente troppo complicata per voi? Ma diciamo che sicuramente esistono dei locali che sono strutturati in un modo rispetto ad altri, quindi per qualcuno è sicuramente una iattura e quindi attende semplicemente al ritorno ai tempi che furono. Per altri locali c'è forse una possibilità di ristrutturare, reinventarsi in una nuova dimensione. Diciamo che l'unico autentico problema è che ovviamente è una questione meramente economica, diciamo che i costi rimangono invariati e sicuramente gli incassi sono nel migliore delle ipotesi a un quarto di quelli che erano, quindi sicuramente è un forte segnale molto importante per la categoria per poter far ritornare, diciamo, gli operatori a lavorare, e quando parlo di operatore parlo un po' di tutto, dal lavoratore autonomo al dipendente, a ovviamente l'imprenditore, ma sicuramente non può essere una condizione che si può trascinare troppo a lungo, perché sennò comporterebbe ovviamente un'impossibilità di far quadrare i conti. Cominardi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E buona riapertura. Insomma, la buona notizia è questa, che entro il fine settimana si torna a ballare in tutta Italia. Discoteche, sale a ballo, soprattutto all'aperto, ma anche per una questione proprio di stagione. 13.44, torniamo invece noi tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.